CRM Happy Talent. Scopri nuovi artisti con CRM Happy Radio. E allora un buon pomeriggio, ben ritrovati qui su CRM da Santi Genovese per questo appuntamento, ennesimo appuntamento con CRM Happy Talent speciale 25esima edizione del Festival Canoro Astro d'Argento. Bene, avete passato bene il weekend? Spero di sì. Adesso allora iniziamo questa nuova settimana, iniziamo questo nuovo appuntamento, visto che ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18 siamo sempre insieme per presentare nuovi talenti, per presentare ospiti, per avere dei personaggi in diretta telefonica da tutta Italia, e visto che il nostro festival collabora con tante manifestazioni, tanti festival, e naturalmente noi siamo orgogliosi di avere poi al telefono tanti personaggi che ci danno veramente tanto piacere essere insieme a noi, anche se virtualmente attraverso il telefono. Io volevo ringraziare come al solito all'inizio della trasmissione tutti voi che ci seguite attraverso la radio sui 101.4 e attraverso internet sul sito www.crm.it, e praticamente ci vedete in streaming. Grazie a tutti voi, un buon ascolto dunque, una buona visione. Iniziamo qui ringraziando gli sponsor che ci accompagnano settimanalmente: la Corama di Castelbuono, Mobili Fratelli di Salvo di Campo Felice di Roccella, la Caffè Ruccione di Caltavuturo, e volevo salutare anche l'amica Silvana della Globat Viaggi, che si trova in via Porto Salvo a Cefalù. Allora, subito, immediatamente, vi presento oggi gli ospiti che saranno qui in studio con me, e poi scopriremo nella seconda parte anche l'ospite che sarà presente attraverso il telefono. Intanto ringrazio Marilu, pensa bene, per essere ritornata. Buonasera Santi, ecco. Buonasera a tutti voi, grazie ancora per avermi ospitata in gliel'avevamo promesso vostra. Gliel'avevamo promesso, perché lei è la vincitrice della 23esima edizione, dunque sì. L'abbiamo avuto ospite in un programma dove c'era così tanta gente che non abbiamo avuto manco nemmeno la possibilità di ascoltare un paio di canzoni, e molte volte sono stata presente con voi al telefono, ecco, quando non potevo importante. Essere presente, mi ha invitato, però io insomma in qualche modo volevo, quindi sono stata vicina al telefono. Poi lei è una che chiacchiera molto, perché devo dire che lei mi ha detto che ha fatto radio, di conseguenza sì. Si trova a suo agio perfettamente. Poi lei è anche una nostra testimonial per voi ragazzi che vi affacciate alla nostra manifestazione, perché Marilu, pensate, 2 anni fa si è avvicinata al nostro festival, alla prima sua apparizione, alla sua prima esibizione al nostro festival, ha vinto il festival, e da lì sono iniziate veramente le belle avventure con l'Astro d'Argento, perché il primo anno nel 2011 è stata semifinalista a Castrocaro. Poi abbiamo lavorato ancora. Sì, che poi ancora, scusami, ho fatto nel 2012, quindi l'anno scorso. Parlavo del 2012. È stata semifinalista a Castrocaro, ha avuto il suo bel passaggio, anche se pochi secondi, anche sul Rai 1. E poi praticamente l'anno scorso abbiamo continuato a lavorare, perché, ripeto, il nostro festival non è soltanto un festival che dura, come si suol dire, da Natale a Santo Stefano, ma il nostro festival dura 365 giorni l'anno, perché sì. I ragazzi vengono seguiti e inseriti nel contesto di altre manifestazioni. Allora Marilu dal Castrocaro è passata al Cantagiro, grazie alla nostra dal nostro gemellaggio con il Cantagiro di Enzo De Carlo e Virginia Barrett. E un'altra bellissima esperienza è stata quella della semifinale nazionale fatta a Fiuggi, dopo la finale regionale vinta a Belpasso, e chiaramente la semifinale nazionale a Fiuggi è stata veramente un'esperienza bellissima. Esperienza che non dimenticherò mai, ne abbiamo parlato al telefono l'altra volta perché eravamo tornati da poco, quindi un qualche commento a caldo, però non mi stancherò mai di dire che chiaramente eravamo in tanti. Vince uno solo e poi si torna a casa comunque con un bagaglio artistico, sebbene il festival duri soltanto 2 o 3 giorni, un bagaglio artistico notevole, quindi una crescita evidente, anche perché si imparano un sacco di cose, cioè non solo la competizione, perché poi alla fine c'è, però si impara veramente tanto. Dicevo, perché ci sono personaggi che con il mondo dello spettacolo ci vivono da una vita. Vedasi Jimmy Fontana, che abbiamo avuto l'onore di riconoscere. Grazie di Michele, Dario Salvatori, insomma, esatto, c'era il patron, un bel po' Virginia di gente. Barrett, sì. Perfetto. E così quest'anno, oltre ad essere vicini come organizzazione al Festival di Castrocaro, al Cantagiro, con cui quest'anno abbiamo preso un accordo importantissimo, perché il vincitore dell'Astro d'Argento, ricordiamolo, quest'anno va direttamente alla finale di Fiuggi, non deve fare altri passaggi, altre semifinali, altri finali, ma va direttamente alla finale di Fiuggi. Wow. È un accordo grandissimo che abbiamo chiuso con Enzo De Carlo. E poi un'altra chicca si è aggiunta alla nostra organizzazione, ci dilunghiamo un pochettino all'inizio perché abbiamo parecchia carne al fuoco, un'altra bella chicca: la settimana scorsa con il patron del Cantamare abbiamo raggiunto degli accordi e dunque l'Astro d'Argento collaborerà quest'anno anche con il Cantamare. E dulcis in fundo un'altra sorpresa che vi diremo fra un po', e questo riguarda ai piccoli. Ma io volevo salutare un'altra ospite, è una giovane cantante che si appresta a fare l'esperienza che tu hai fatto. La presentiamo, anzi si presenta da sola. Ecco. Salve a tutti, mi chiamo Anna Maria Abate, per me questa è la prima volta, quindi... Vieni da? Ecco, da Palermo, vengo da Palermo e ho 22 anni. Non sei spigliata come no, lei. No. Per me questa... Però Santi, scusami Anna Maria, ti interrompo, è timida perché è la prima volta, perché però è brava, brava. La ascolteremo sì, fra un po'. È brava. E allora, Anna Maria, dunque, ti auguro di fare la stessa trafila. Grazie. Che ha fatto la nostra Marilù. Noi ci impegniamo al massimo, che lei già lo sa, per portare avanti i ragazzi. E dico noi perché voglio salutare i colleghi, i collaboratori che mi stanno sicuramente ascoltando, anche se non mi stanno ascoltando li saluto lo stesso: Luigi, Antonella, Maria e un altro grande collaboratore, ce l'abbiamo in studio, adesso lo presentiamo fra un secondo, perché noi lavoriamo a 360 gradi per poter portare i nostri ragazzi a certi livelli. È certo, un'espansione continua, Santi, sì, ed è un orgoglio personale. Ci manca solo la ciliegina sulla torta, guarda, quello che si farà, il festival che si farà fra un mesetto. Se riusciamo ad arrivare anche a Sanremo siamo veramente alla grande. Comunque non disperiamo, ci ho messo tanto per arrivare fin qua, vuol dire che lotteremo ancora. Gli inglesi dicono step by step. E lotteremo insieme anche al nostro Olinto, che presento subito qui, il microfono ce l'ha il microfono, diamo il microfono Olinto. Olinto è un altro collaboratore del festival, soprattutto Olinto è quello che vi dà la voce, che vi fa, ecco, attraverso tutta la sua strumentazione, perché lui cura tutta la parte tecnica del festival. E dunque Olinto, tu hai esperienza, tu sei un musicista, hai esperienza anche di radio oppure? No, esperienza di radio. È acceso il microfono, ecco. È strano però che uno che cura la voce dei ragazzi alla fine è emozionato. Comunque io mi occupo di audio, questo per me è il secondo anno, si sente? Sì, vabbè. Sì, perfetto. Quindi cerchiamo di dare il massimo. Questa è la mia seconda esperienza fatta con te, Santi, e speriamo che vada sempre meglio. Sempre meglio. Ok, io non, però lo faccio mettere un po' più a suo agio, perché vedo che a usare la strumentazione è grandissimo. Sì, perché scusami, io ho cantato in presenza di Olinto, devo dire che la voce è tutto liscio, cioè, bravo, sì, bravo. Tra l'altro sei stata anche in una giuria per i piccoli insieme a lui. E c'era anche ed lui, era, sì, ed era sì, tranquillissimo. Sì, sì. È bravo. E beh, oggi si è un po' bloccato. Vabbè, no. Allora facciamo una cosa, io direi a Simone di ascoltarci la bella voce di Marilù con la sua prima canzone. Io ricordo questa canzone che tu hai presentato a bel passo alla finale regionale del Cantagiro 2012, sì, a bel passo, con sì. Questo bel brano sei riuscita ad arrivare alla sì. Semifinale nazionale di Fiuggi. È allora, un brano, dico, cioè, dobbiamo presentare il brano. Presentiamo. È un brano tratto dal musical di Notre Dame de Paris. Ci sono due versioni, in realtà ce ne sono tre: una in italiano, una in inglese e una in francese. Io, da amante della lingua anglofona, chiaramente quale facevo? Quale avrei potuto fare? Inglese. In inglese. Non si chiama più La Cavalcatura, ma si chiama My Heart If You Will Swear. Punto. Linea alla regia, vai. You ride so high and straight and fair. You look like you belong there. So strong and riding for square. No other man can compare. Oh, maybe you don't really care. Just look for pleasure out there and always get your share. Is there a heart in you somewhere? My heart is pure, my heart is where. If you are hurt, I'll be there. We'll start again from nowhere. You let my heart, if you will swear. You let my heart, if you will swear, that you will hang Esmeralda. I'm not a little girl now. I'll show you that I know how. I'll show you how I can be. You think that I am so pure. I'll tell you, don't be so sure. I can be wild and free. Your words of love are hard to bear. Your promises are thin air. My heart is hard and I don't care. I'll leave you hanging out there. I'll lose my beard, let down my hair. Come take me if you're still there. Your love is all I want to hear. You let my heart, if you will swear. You let my heart, if you will swear, that you will hang Esmeralda. You let my heart, if you will swear. You let my heart, if you will swear, that you will hang Esmeralda. That you will hang the Zingara. Grazie. Bene, bravissima la nostra Marilou, me la ricordo questa canzone, sì, che ha colpito tantissimo in platea, poi a Fiuggi ci si doveva presentare con un pezzo inedito, sì. E abbiamo avuto poco tempo per lavorarlo e magari avremmo potuto fare di meglio, facciamo così, penseremo a dopo, intanto esatto. Linea alla regia per la pubblicità. E allora, eccoci tornati in studio, c'è stato il cambio di postazione, abbiamo messo per un attimo da parte Marilou, ma non la mettiamo mai da parte, soltanto per un attimo, e abbiamo fatto accomodare qui accanto a noi Anna Maria. Intanto saluto ancora una volta i nostri amici sponsor, che sono la Corama di Castelbuono, Mobili di Salvo, dei Fratelli di Salvo a Campo Felice di Roccella, e ancora Caffè Ruccione di Caltavuturo, e salutiamo, ripeto ancora una volta, la Globat Viaggi, che si trova in via Porto Salvo a Cefalù. Allora, Anna Maria, lei è veramente, guarda, non ti dico che sta tremando, ma ci manca poco. E allora, io dico sempre ai ragazzi, deve esserci quel minimo di tensione, di emozione, quella adrenalina che deve venire fuori, anche perché sì, certo. C'è gente che fa spettacoli da una vita, però nel momento in cui deve impattare con un pubblico c'è sempre quel momento di sì, è sempre emozionante. Emozionante, di emozione, sì. Non mi veniva la parola. Bene, Anna Maria, tu da quanti anni è che canti? Da piccolina, però ho iniziato a studiare all'età di 12 anni. Sì, sì, io conosco anche la tua insegnante di canto, che è poi la stessa insegnante di Marilou. Anzi, vorrei salutare Beatrice, che ci starà ascoltando senz'altro e vi starà guardando soprattutto, perché so che lei è un'attenta maestra di canto. Lei vi segue anche quando non siete nella sua aula a studiare, cioè, sì. È molto pignola, e questo fa grande la nostra Beatrice. Devo dire che è una ottima professionista, e ho avuto modo di conoscerla e le faccio i miei complimenti. Anna Maria, oggi cosa ci presenti qua? Allora, io canto una canzone di Aretha Franklin, Respect. Perfetto, allora preparati pure. Chiaramente io lo ricordo sempre, queste canzoni non sono poi quelle che i ragazzi presenteranno al festival, perché la canzone che poi loro decideranno di presentare al festival dovrà essere scelta entro il 17 aprile. Sì, perché signori miei, oggi anticipiamo anche un'altra notizia, la presentazione ufficiale del festival e dei semifinalisti del festival sarà fatta il 17 aprile. Non vi diciamo né dove né come né quando, ma intanto vi diamo la data. È una domenica, dunque non si lavora, siete tutti liberi, tranquilli, non ci sono problemi. Anna Maria, a te, vai dalla Grazie. Regia con la musica. Want you all, baby, I got it. Want you deep, you know I got it. All of this key is for that little respect. And I'm coming on, baby. When you get down, just a little bit, mister. Just a little bit. And I get you wrong, why I got him. And I get you wrong, cause you want him. It's for a little respect. Can I come on, baby? When you get down, just a little bit. Ooh, just a little bit. I don't got to review all of my morning. All of the ski it's on your honey. And you give me my problem. Give it to me, yeah, baby. Give it to me. Ooh, ISPCT, find my speech to me. ISPCT, take out TCP. Ooh, little respect. Ooh, baby, little respect. Ooh, get to ride, keep on trying. To fool and a lie, respect. Bene, bene, bene. Allora, Anna Maria, siediti pure, prendi fiato, perché tu hai presentato intanto una canzone difficilissima, sì. Giusto giusto in un giorno dove c'è, avevi un po' di problemi con la gola, con la voce, ma naturalmente per chi capisce di musica si intuisce già che Anna Maria è veramente brava. Complimenti. Adesso praticamente noi avremo la sorpresa di cui parlavo prima, perché abbiamo parlato non ti rilassati, sì, sì. È finita l'esibizione. Sì, sì, non sì. Sei sotto giudizio, perché no, praticamente no, è una esibizione libera, di conseguenza non ci sono problemi. Ecco, mentre tu ti rilassi, noi abbiamo in linea, pronto? Sì, pronto. Allora, ciao Katia. Ciao a tutti. Ciao, non abbiamo parlato di chi è Katia, perché volevamo fare una sorpresa ai nostri amici radioascoltatori, ma anche ai nostri amici che ci vedono che ci seguono anche attraverso internet e su streaming, perché non abbiamo parlato ancora di questo nuovo festival che fa parte anche dell'Astro d'Argento. Noi da qualche giorno abbiamo parlato con Katia, che è la direttrice artistica, l'organizzatrice di un nuovo festival che adesso vediamo sui schermi del nostro streaming, Vocine Nuove di Castrocaro. Ciao Katia! Esatto, proprio così, proprio così. Io ho ideato e organizzo e ne curo la direzione artistica da quando esiste, da 10 anni, il festival appunto Vocine Nuove Castrocaro. Castrocaro, un po' tutta Italia collega questo nome al festival, quello dei ragazzi grandi, il festival Voci Nuove, che è un gran bel trampolino, un festival importantissimo dove sono passati tutti dalla Cinquetti in poi, ma che esiste da 56 anni, ma da 10 anni, non tutti lo sanno, a Castrocaro esiste anche il fratellino minore, Vocine Nuove. O la sorellina minore. Bene, bene, bene. E noi sì. Abbiamo scoperto questo festival, anche perché tu sai che noi da 3 stagioni siamo gemellati al festival di Castrocaro Voci Nuove. Esatto. E abbiamo un ospite qui in studio oggi, Marilu, pensa bene. Buonasera. Che nel 2012 2012 è stata appunto semifinalista del Castrocaro Voci Nuove, avendo vinto il Festival Astro d'Argento. E dunque, ah, bene, bene. E qui ce l'abbiamo, già si è esibita, e appunto abbiamo in studio Marilu Pensabene. Allora, io scoprendo questa questo nuovo festival Vocine Nuove, mi sono messo in contatto con Katia. Ed ecco che è nato questa bella, diciamo, questa quindi bella collaborazione. L'astro d'argento sarà, partner del Festival dei Grandi, ma anche dei bambini. Sì, e tra l'altro io ho visto che hai inserito sul tuo sito praticamente, esatto, la nostra, un piccolo curriculum di quello che noi abbiamo fatto, sì, durante il corso di questi 25 anni. Ti ringrazio, molto bello, molto grazioso. Infatti Vocine Nuove è un festival che collabora con tanti altri festival minori, insomma con altri festival in tutta Italia, da Asti, adesso possiamo dire fino a Palermo. Eh sì, perché ci siamo noi. Perché ci siete voi, comunque, passando attraverso la Calabria, le Marche, la Puglia, eccetera, eccetera. Abbiamo 12-13 festival partner con i quali collaboriamo e siamo molto contenti perché abbiamo aperto la nostra finestra anche sulla Sicilia. Benissimo, questa finestra si chiama Astro d'Argento, noi siamo onorati di far parte di questa bella organizzazione. Fra l'altro, devo dire, e questo riguarda soprattutto i nostri ragazzini che ci stanno ascoltando, che il Festival Vocine Nuove, nella persona di Katia, quest'anno cosa mette in premio per il vincitore? Mi fai dire una cosa importantantissima, sì, che secondo, sì, me è uno degli elementi caratterizzanti del nostro festival. Esatto. Allora, siccome vengono bambini da tutta Italia, e quindi bambini che con le famiglie giustamente si spostano e fanno tantissimi chilometri, non ci piaceva fare la solita semplice offerta: vieni, canti e poi ti facciamo sapere se sei in finale. Esatto. Ci sembrava troppo poco fare degli spostamenti così grandi e impegnativi per una performance di 5 minuti e poi finito tutto lì, mi sembrava pochissimo. Poi, essendo a Castrocaro, città della musica, abbiamo voluto preparare un'offerta molto più ricca per questi bimbi che fanno così tanti chilometri, in particolare poi per tutti naturalmente. Praticamente si faranno in aprile due weekend con due gruppi di bambini diversi, con una giornata di workshop, una giornata di laboratorio con Monica Magnani, che è la vocal coach di Ti Lascio Una Canzone. Una giornata intera con lei, si faranno dei lavori collettivi, dei lavori individuali, quindi una giornata molto molto ricca, piena di cose, molto divertente. E la domenica audizioni, il tutto al Grand Hotel. Poi la finale il 25 maggio al Padiglione, che è il nostro storico teatro di Castrocaro, dove sono passati tutti i cantanti. Il Padiglione, dove sono entrato per la prima volta quando siamo venuti a Castrocaro, avevo una squadra di 6 ragazzi nella prima edizione quando noi siamo andati a Castrocaro, e siamo rimasti un po' lì a vedere quel padiglione bellissimo. È bello, un teatro suggestivo, molto particolare. Sono passati tutti per citare gli ultimi, la Pausini, Ramazzotti. Sì, sì, ma infatti poi, per chi non è stato a Castrocaro, voglio dire che nei viali ci sono anche le figure dei cantanti, sì, è vero. Che sono passati, sì, da Castrocaro, da Ramazzotti. Hanno riprodotto delle stampe molto carine dove ci sono tutti i cantanti Cinquetti, Morandi, Alice, esatto, Fiorello, sì. È un po' come la Walk of Fame di Los Angeles in piccolo, praticamente. Sì, a Los Angeles c'è l'impronta della mano, noi abbiamo proprio l'immagine. Sai, sono delle cose molto, molto carine, molto graziose, che poi, tra l'altro, i nostri ragazzi quando li vedono rimangono lì impressionati, nel senso che è bello perché insomma si caratterizza per la canzone, per cui è un messaggio chiaro per tutti i turisti. No, ma io sono convinto che praticamente queste cose servono anche a stimolare questi ragazzi, cioè che da Castrocaro siano passati veramente artisti di Lucio Dalla, ad esempio, che non c'è più, è stato uno di tanti artisti che è passato da Castrocaro, dunque tutti. È sempre una vetrina, così come il Cantagiro, altra manifestazione importante. Quest'anno ad esempio è una cosa bellissima che ho notato, e questi festival sono importanti anche per questo, perché valorizzano anche i giovani. Ho notato che al Cantagiro nei festeggiamenti del 50° anno di attività, per la 50° edizione, durante il Festival di Sanremo verrà presentato un CD dove ci sono tutti i ragazzi finalisti praticamente della manifestazione, e fra i quali ti dico ci sarà anche un ragazzo dell'Astro d'Argento, Joker, che ha vinto un premio speciale. Ma Joker lo conosco bene, l'ho sentito l'anno scorso, l'anno prima. Joker è il tuo ragazzo? Sì, sì, esatto, è della squadra Astro d'Argento. È una simpatia unica, se tu gli parli di me lui si ricorda. Perfetto, lo farò senz'altro. Stavo dicendo, per radio è bellissima. Ecco, stavo dicendo, Joker sarà inserito nel CD praticamente dei finalisti, che verrà presentato a Sanremo nella settimana del Festival di Sanremo, ma verrà presentato anche una cosa particolare, un libro del 50° Festival del Cantagiro, dove, pensa, ci sono i nomi di tutti i finalisti e semifinalisti del Cantagiro di quest'anno. Bello, fra i quali ci sarà Marilu Pensabene, ci sarà Monica Giambrone, ci saranno tutti i ragazzi dell'Astro d'Argento, saranno e resteranno in quel libro per sempre, perché E allora sono queste le cose. Memoria. Ecco, quello è un curriculum, fa testo, insomma, diventa una cosa importantissima. Allora, Katia, non voglio dilungarti più. Dicevamo, allora, le date sono 6-7 aprile, 20 e 21 aprile, due weekend a Castrocaro per fare la giornata di didattica e la giornata di audizioni. Perfetto. 25 aprile, finalissima, altra cosa importantissima della quale vado orgogliosa e fiera, finalissima con l'orchestra dal vivo. Perfetto, e questo è quello che ho sempre sognato io. Purtroppo io l'ho dovuta abolire al mio festival semplicemente per i costi. È qualcosa di molto impegnativo, ma io voglio assolutamente. Anch'io tu pensa che i primi 10 anni del festival, il mio festival, Astro d'Argento, si è fatto sempre con l'orchestra dal vivo. Poi, siccome economicamente siamo andati un po' sempre più indietro, oggi poi non sappiamo dove siamo arrivati, veramente abbiamo toccato il fondo, non ho potuto più permettermi di fare una finale con l'orchestra dal vivo, perché tu sai benissimo quanto costano i musicisti. È meraviglioso, è un qualche cosa veramente in più di qualità. lo so, ma purtroppo chissà, forse un giorno ritorneremo al quindi possiamo dire per radio, sì, ufficializzare il fatto che il vincitore del tuo festival, il baby vincitore del tuo festival, verrà di diritto ospite a Vocine Nuove. Non esistono corsie preferenziali, entra non dovendo pagare nessuna iscrizione ed è messo dentro a tutto il gruppone delle selezioni. Perfetto. Quindi fa il percorso che fanno tutti gli altri, però ha il vantaggio di non avere nessun costo e nessuna iscrizione a carico. Bene, il Katia. Secondo e il terzo ci veniamo incontro, come ci siamo detti, sì, esatto. Attraverso il vostro buon cuore. Vogliamo far qualcosa anche per il secondo e il terzo classificato del tuo festival, per fargli accedere a Vocine Nuove, ma naturalmente Vocine Nuove è apertissimo a tutti coloro vogliono venire, insomma, farsi una bella esperienza. Bene, noi siamo... Anche perché un bimbo di 12, 13, 8 anni, lo possiamo dire, non c'è un limite di età, 4-5 anni fino a massimo 14 anni. Esatto. Ecco. Chiunque voglia partecipare a Castrocaro per farsi una bellissima esperienza, per mettere anche Vocine Nuove Castrocaro nel proprio curriculum, esatto, che ha il suo peso. Ma volevo chiederti una cosa, alla fine parliamo del premio. Ecco, del premio, alla il vincitore. Fine, come premio, guarda, come premio ci siamo detti questo. Magari il premio in denaro non ci piaceva, non mi piaceva. Altre cose le trovavo abbastanza, insomma, personali, quindi allora abbiamo pensato insieme al mio staff di regalare la registrazione di un brano, che poi lo sceglieremo insieme, in uno studio di registrazione professionale. Questo brano poi serve per poter partecipare a concorsi grandi, tipo Ti lascio una canzone, tipo Io canto. Per accedere a queste grandi e importanti trasmissioni televisive occorre presentarsi innanzitutto in questo modo, mandando un video, mandando un video o una registrazione di un brano, e quindi logicamente, essendo quel momento la prima fase di selezione, più il prodotto che si invia è di qualità, ben fatto e più curato, possibilità, e più ci sono appunto, perché spesso io conosco anche persone che selezionano bambini per queste trasmissioni. Spesso non mi dicono che arrivano addirittura delle cose proprio molto molto grezze fatte in casa. E non va quindi bene. Quindi un bambino che magari può avere delle capacità non vengono valorizzate assolutamente, vengono subito eliminati. Va bene. Allora, io direi mi piaceva offrire questo prodotto, questa registrazione, che per loro può essere un qualche cosa che gli serve nel caso volessero iscriversi a concorsi tipo Ti lascio una canzone o Io canto, che secondo me in fondo è il sogno un po' di tutti. Di tutti i ragazzini, lo so. Noi l'anno scorso, grazie a Vito, un vocal coach di Ti lascio una canzone, abbiamo portato 10 ragazzini. Marco Vito, non so se tu conosci. No, questo nome no. Sì, ma lui è un vocal coach di Ti lascio una canzone. Grazie a lui abbiamo avuto 10 ragazzini dei nostri che sono andati a fare il provino in provincia di Messina, qui in Sicilia. C'era anche il maestro di Amicis. Esatto, però come dici, di tu, come dici tu, non è che avevamo tanto materiale di un certo di una certa qualità, e alla fine, anche se qualche ragazzino veramente secondo me meritava di andare in trasmissione, perché giustamente se noi capiamo poi alla fine di musica, e soprattutto capiamo, insomma, siamo mai esperti dopo tanti anni, vediamo la differenza fra un ragazzino e l'altro, purtroppo qualcuno di questi ragazzini ci è rimasto un po' male, perché non è passato, non è andato. Ma come dici tu, ci vuole anche un buon materiale, un materiale, esatto, di qualità, perché il primissimo impatto è quello: si invia, e poi nei vari siti internet ci sono tutti i regolamenti, si invia appunto questo brano realizzato, e più è altamente professionale, e più sono le possibilità, insomma, che il ragazzino ha di superare e andare alla fase successiva, insomma. Quindi, ecco, visto il desiderio di questi ragazzini di partecipare a questa importante trasmissione, ho pensato di regalargli questa cosa. Benissimo, Katia, io ti ringrazio, perché sei stata... Possiamo dire solo il sito delle vocine? Sì, diciamolo, anzi diciamolo, anche perché noi già lo stiamo facendo passare sui nostri schermi, ma ricordiamolo pure, www. Semplicissimo, vocinenuovecastrocaro.com. Benissimo, sintonizzatevi e troverete anche l'Astro d'Argento tra i festival partner di questo nostro bel festival per i più piccoli. Bene, Katia, io Bene. Ti ringrazio, avrò modo poi di continuare a spiegare, certo, ai nostri ragazzini. Dico soltanto che il vincitore della categoria per quanto riguarda l'Astro d'Argento avrà questa possibilità di andare a Vocine a Castrocaro, e dico anche la data, perché ci siamo già accordati che verremmo nella seconda sessione, nel secondo weekend, cioè 20 e 21 di aprile. Dunque, molto bene, stiamo... e noi vi aspettiamo volentieri a Castrocaro. Va bene, ciao Katia, grazie, ci risentiamo. Ciao. Bene, allora abbiamo ascoltato quest'altra chicca. Diciamo ai bambini, prima di dare la linea alla regia per la pubblicità, che per quanto riguarda la categoria dei piccoli, al contrario di quella dei grandi, mentre il 31 gennaio chiudiamo la categoria dei grandi, per i piccoli prolunghiamo, grazie a questa collaborazione con Vocine Nuove di Castrocaro, fino al 20 febbraio la data dell'iscrizione. Dunque, fino al 20 febbraio, per quanto riguarda i ragazzini fino a 14 anni, possono iscriversi e partecipare all'Astro d'Argento Baby, per poi cercare di andare a Vocine Nuove Castrocaro. Spiegheremo meglio tutto nelle prossime puntate del programma, nei prossimi appuntamenti. Intanto linea alla regia, perché abbiamo la pubblicità. Se ci pensi mai, lo sai che anche il mare più blu poi nasconde scogli, c'è da correre per rimanere dove siamo. Perfetta così questa nostra stagione, giorni insieme ad esplorare noi, è perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' vivere per diventare quel che siamo. Perfetta così questa nostra stagione di vita insieme a innamorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Guarda in quanti corrono spingendo il freno e non riescono più a prendersi la mano. Fermi tra abitudini e speranze vane. C'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Stupenda così questa nostra stagione di vita insieme a raccontarci noi. Perfetta così, ma non c'è un po' di cure, le nostre paure. E allora ci siamo anche sentiti il comunicato politico. Allora, adesso torniamo in studio, ci siamo rilassati un attimino. Intanto volevo dire a Luigi, che è uno dei collaboratori del festival, io lo chiamo sempre braccio destro, braccio sinistro, fai un pochettino tu, che qui i tuoi messaggi non sono arrivati, se no io l'avrei letti. Questo mi dice Simone dall'altra parte. Poi, se tu non ci credi, prendi il telefono e chiamalo 0921 923292, che è il numero della radio, e gli tiri le orecchie via telefono al nostro Simone. Intanto abbiamo ricevuto il messaggio. Un messaggio, lo leggo, dai, lo leggiamo. Un ragazzo simpaticissimo, sì, intanto. Da parte di Maurizio Indelicato, che io ho conosciuto, che conosci pure tu, ho conosciuto al Cantagiro. Del nostro clan. E ci dice: un abbraccio grande per Santi e per la dolcissima Marilu, sono Maurizio Indelicato, ciao Betty Picciotti. Io bellissimo. Non capisco perché. Ciao Maurizio, ti salutiamo. Ciao Maurizio, anche noi. Ciao Maurizio, ti aspetto prestissimo qui in radio. Io non capisco perché, se è una donna è dolcissima. Ma scusa, per noi tu manco sei, amari. No, ti ha scritto un abbraccio grande. Scusa, pensavo il grande Santi. Ho fatto una gaffa. Volevo niente. Comunque, stuzzicare un po'. Ciao Maurizio, ciao. Comunque, a ciao presto. Maurizio, ti aspettiamo presto. Tra l'altro, presto. Bravissimo, bellissima voce. E fra l'altro, Maurizio è inserito in quel CD, quella compilation, se non vado errato, di cui parlavamo prima del Cantagiro, perché è stato finalista al Cantagiro e dunque insieme a Joker farà parte di questa compilation. In bocca al lupo ai ragazzi. Che allora sarà presentata a Sanremo il prossimo mese. In bocca al lupo ai due ragazzi che saranno impegnati in questo lavoro, però in bocca al lupo ai nostri ragazzi che ritenteranno. Io non dimentico Monica Giambrone, Marichia, la nostra Marilu. Monica l'hai detto. Monica sì, Giambrone, Monica, sì, sì, sì, sì. Però parliamo del Cantagiro, perché se parliamo di Castrocaro poi dovremmo nominare anche gli altri ragazzi che sono andati a Castrocaro: Noemi Cangialosi, i Pantarei, Martina Palilla, che una di queste settimane sarà presente qui con noi, avremo il piacere di ospitare. Insomma, abbiamo qualche telefonata? Pronto? Sì, pronto. Con chi parlo, scusi? No, Luigi sono ciao Luigi. Ciao Luigi. Ciao Luigi. Allora, tutto bene? Tutto bene. Con chi sono al telefono? Scusate. Scusa, allora, Luigi, non mi riconosci? Luigi, sono Marilu. Ciao Marilu. Ciao Luigi. Dai. Aspetta. Non è in diretta. Cosa sta facendo, Santi? Guarda che sei in diretta. Luigi. Allora, Luigi, non mi fa fare brutta figura. Io ho detto un grande collaboratore dell'Astro d'Argento, poi tu ti presenti al telefono stile Rambo e mi fai cascare le braccia. Pronto? Sì, pronto? Allora, pronto? Mi senti? Sì, sì, so che tramite streaming mi arriva un pochettino in ritardo, quindi tu, l'ho tolto completamente. Bravo, tu devi parlare al telefono, soltanto al telefono. Infatti, no, dicevo poco fa, ti avevo telefonato dicendo che ha comandato complimenti a Marilu. Grazie Luigi. E noi non abbiamo ricevuto voi questi messaggi, infatti hai fatto bene a chiamare. Sto dando in diretta. Ah, no? Perfetto. Marilu sempre bellissima, l'altra ragazza non la conosco, ma l'ho sentita cantare ottimamente. E anche se aveva poca voce. Anna Maria, commenti? Grazie. Allora, poi, Anna Maria, ti presento Luigi. Luigi praticamente è un organizzatore, l'organizzatore e collaboratore dell'Astro d'Argento. Sì, buonasera. E grazie per il complimento. Hai capito, Luigi? No, nessun complimento quando andate bene lì, non è un complimento. Ma ci proviamo. Ecco. Benissimo. Beh. Allora, Luigi, noi adesso fra un po' sentiremo cantare Marilu per la seconda volta quest'oggi. Hai sentito anche Katia Vocine Nuove. Hai sentito che appena ho nominato Joker immediatamente... Joker era qui con me e mandava i saluti a Katia in diretta. Peccato che non l'ho potuto ricambiare. Fagli arrivare comunque. Sì, senz'altro, perché ci sentiremo poi per metterci d'accordo su alcune situazioni per quanto riguarda appunto il nostro, ormai definiamolo ufficiale, gemellaggio con Vocine Nuove di Castrocaro. Benissimo. Ecco, perfetto. Bene, Luigi, io ti aspetto dell'impegno mercoledì, perché tu le prime puntate ci sei stato, poi per motivi di lavoro ti sei dato un po' latitante, però noi ti aspettiamo. Un po' latitante, ecco. Però come vedi ci sono sempre, anche con lo spirito, ma ci sono. Benissimo, e allora Luigi, salutami Antonella. Ciao. Ci sei? Okay. Ci sei? No, Antonella non c'era. Mi sembrava la voce di Antonella, invece... C'è pure, non ti preoccupare. Era Marilu che salutava te, va bene. Ok, un salutone a tutti. Dunque, ringraziamo Luigi che è stato presente grazie anche alla telefonata. Ti saluta anche Olindo. Sì. Ecco, è qui, Olindo è qui con noi, oggi l'abbiamo avuto ospite. Ciao Olindo! Aspetta. Ciao Luigi. A posto. Benissimo. Allora, ok. Anna Maria. Alla prossima. Sì, buonasera. Ciao. Cosa facciamo ciao, dire ciao. Ad Anna Maria? Okay. Devi chiederle qualcosa. No, poi la intervisterà di presenza. Ecco. Bene, salutiamo allora Luigi. Adesso abbiamo chiacchierato anche un po' troppo. Diamo spazio nuovamente a Marilu, anche perché siamo alle 17:50-51, siamo quasi in chiusura di trasmissione e dobbiamo ascoltare quest'altra bellissima canzone che ci fai. Però dimmi, ti volevo dire che in realtà tu hai detto Maurizio fai complimenti a me, torniamo indietro, in realtà Maurizio l'ha fatti anche a te, perché se leggi bene il messaggio, ciao Beddy Picciotti, ti ha chiamato Beddo, non aveva gli occhiali, ma scusa, sicuramente ecco bravo. Va bene, allora vado il secondo pezzo. È un pezzo movimentato, che è un pezzo che fece ballare l'America e il mondo negli anni 90. Io non sono all'altezza sua a livello di carisma e verve, però lo ripropongo lo stesso, un omaggio a Madonna, la canzone Vogue. The pose. Strike a pose. Look around, everywhere you turn it's heartache. It's everywhere that you go. You try Everything you can to escape the pain of life that you know. If all else fails and you long to be something better than you are today, I know a place where you can get away. It's called a dance floor, and here's what it's for. So come on, Vogue, let your body move to the music. Hey, hey, hey, come on, Vogue, let your body go with the flow. You know you can do it. All you need is your own imagination, so use it, that's what it's for. Go inside for your finest inspiration. Your dreams will open the door. It makes no difference if you're black or white, if you're a boy or a girl. If the music's bumping, it will give you new life. You're a superstar, yes, that's what you are. You know it, come on, Vogue, let your body groove to the music. Hey, hey, hey, come on, Vogue, let your body go with the flow. You know you can do it. Beauty's where you find it, not just where you bump and grind it. Soul is in the music code, that's what I feel. So beautiful, magical, and life's a ball. So get up on the dance floor, Vogue, let your body move to the music. Hey, hey, hey, come on, Vogue, let your body go with the flow. You know you can do it, Vogue. Beauty's where you find it. Vogue. Greta Garbo and Moreau, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, James Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They have style, they have grace. Rita Hayworth, get good face. Lawrence, Catherine, Lana too. Betty Davis, Will of You. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't you stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. Vogue. Vogue, Vogue, Vogue. Bene, bene, ecco, bene, qua. Bene. Un brano nostra... dance, dance. Ci siamo un po' così divertiti e ci è messo un po' in allegria. Allora, io prima di dare la linea alla regia per la pubblicità e poi ritornare in studio per i saluti finali, volevo leggerti un messaggio. Vi sto seguendo da casa, bravissime, come sempre. Vi abbraccio, Claudia. Claudia. La cognata di Marilu. Claudia, ciao Claudia, ma che carina. Benissimo, un saluto a Santi anche se non lo conosco. Ecco. Vabbè, grazie, io ti ricambio. È simpaticissima, te la devo presentare. Benissimo, allora aspettiamo anche, anzi portala la prossima volta in trasmissione, okay, qua da noi. Allora, in linea alla regia al nostro Simone, che ringraziamo sempre per la sua professionalità, per la sua cortesia, per la sua gentilezza, e naturalmente ci risentiamo dopo per i saluti. E allora, 17:58, due minuti per chiudere, per ringraziare i nostri ospiti, per ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato, hanno visto questa trasmissione di oggi. Cominciamo con salutare Anna Maria. Ciao Anna Maria, buon ritorno e alla prossima. Grazie. Ecco, hai ricevuto... Grazie per l'invito. Comunque. Ecco, comunque questo è un passaggio obbligatorio, okay, per i nostri amici concorrenti dell'Astro d'Argento. E grazie Anna Maria, abbiamo conosciuto dunque Anna Maria e volevo salutare la nostra Marilu che... Tra l'altro è stata lei poi alla fine la conduttrice, perché insomma... Non è vero. Peccato che è a Palermo, perché sennò il nostro buon Arduino l'avrebbe già ingaggiata come speaker radiofonica. Con piacere, grazie a voi come sempre, Santa, inutile rinnovare sempre i ringraziamenti, mi sento di dirti questo, grazie sempre. Ecco, perfetto, io ringrazio tutte e due che siete venuti da Palermo oggi qua in trasmissione. Io volevo ringraziare Olinto, allora adesso cominciamo... Dimmi Santi. Ecco, cominciamo a lavorare sui programmi che ci aspettano per questa primavera-estate 2013, perché chiaramente cominceremo già a preparare il lavoro. So che tu in questo periodo dove si sta un po' fermi vai a mettere io non sto fermo. A posto tutti. Io continuo. Ecco. Comunque io ti ringrazio per l'invito, ci vedremo quest'estate in tour, in giro per la Sicilia. Tra l'altro abbiamo modo di essere insieme anche a CRM, che quest'estate ci ha seguito tantissimo nelle varie piazze e ha dato la possibilità di far vedere il festival a tanta gente. Grazie Olinto per essere stato qua oggi. Io volevo ringraziare i nostri sponsor ancora una volta, la Corama di Castelbuono, Mobili Fratelli di Salvo di Campo Felice di Roccella, ancora Caffè Ruccione di Caltavuturo, l'amica Silvana della Globat Viaggia Cefalù in via Porto Salvo. E chiaramente volevo ricordare, e questo cominciamo già a partire da adesso a far pubblicità, che da martedì 5 febbraio parte una nuova trasmissione su CRM Piredio. E chiaramente avrò l'onore di condurre dalle 17 alle 19 ogni martedì, e dunque due ore da stare insieme. Parleremo di sport e di avvenimenti sportivi, e soprattutto con tanti ospiti, tante interviste, tanti personaggi che saranno presenti qui in studio. La trasmissione sarà CRM Linea Sport, e appunto questo è un nuovo appuntamento che andremo ad iniziare martedì 5 febbraio, ripeto, dalle 17 alle 19 saremo insieme per parlare di sport e non chiaramente anche quello che non è sport ma che è inerente allo sport. Bene, grazie a tutti. La nostra trasmissione invece per quanto riguarda CRM Happy Talent vi dà appuntamento a mercoledì sempre dalle 17 alle 18. Una buona serata e un buon proseguimento di programmi con CRM Happy Radio.